questo quella per me pari sono quant'altre d'intorno intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'ero meglio a una che ad altra beltà la costoro avvenenza è qual d'oro di che le fato nei fiora la vita soggi questa mi torna gradita forse un'altra dov'allo sarà un'altra forse un'altra dov'allo sarà la costanza tiranna del cuore detestiamo qual morbo crudele sol chi vuole ci servi fedele non va ora se non v'è libertà dei mariti il geloso furore degli amanti le smanie del rido Anco d'argo i cent'occhi di sfido se mi punge una qualche beltà se mi punge una qualche beltà Oh. Se ne sa te, ca fele! la ti incontrai, mi piacque di te chiedere, ben quasi ti acquistai, or soffri te l'allora, sol per quest'alba l'ora. E ne fai sapreso, le scuole da forza adesso, onori al signorino, davvero ribordino. Sì, un vostro salto. Oh, madurità, ribordino. Sì, che fratesso. Ti ho fatto. Ed si nocine non fare di tanto piasso. Ogni saggezza chiude sì negli gaudi e nell'amore. La bella mano candida. Serfate voi, signore. No, no. Son brutta. Abbracciami. Palpitante qual piuma la vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna è mobil, qual piuma la vento muta d'accento e di pensiero. Se vuoi il mexicano quando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Conserva el embrujo de los ojos amados. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca negra, jugosa lámpara que me habla de amor. Thank you. cantará en copilas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen. Good enough.